Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: si va verso la settimana cruciale per poi l'appuntamento elettorale, e noi inizieremo, come stanno facendo anche altri media per carità e come domani farà con due pagine sulle 24 ore, dicevo, inizieremo a fare il calcolo dei costi, delle proposte dei vari schieramenti, i principali perlomeno, e cioè i tagli tendenzialmente fiscali annunciati e promessi, quanto costerebbero in termini di finanza pubblica alla luce, perché qui c'è un piccolo problema nella campagna elettorale, io lo capisco, è umano, tutti ricordano quello che vorrebbero fare ma nessuno ricorda quello che dovremmo fare comunque per gli impegni presi in Europa e gli automatismi posti nell'ultima finanziaria. Ne cito uno su tutti: l'aumento dell'IVA, o si reperiscono le risorse o in automatico dal primo di maggio l'IVA aumenterà di un punto percentuale, quindi andrà al 22%. Questo vuol dire 4 miliardi, non in realtà 4 miliardi tutti nel 2013, 2 miliardi perché arriverà a metà anno nel 2013 e 4 però nel 2014. Altri appuntamenti presi, c'è l'ipotesi di una manovra correttiva che forse l'Europa potrebbe, dopo le dichiarazioni che ha fatto sulla Francia Olli Rehn, il commissario europeo, forse quella potremmo evitarla, e va bene, c'è l'ipotesi della copertura delle spese. Anche qui alcune spese vanno coperte, poi vedremo quali, e bisogna reperire le risorse. A fronte di questo bisogna sommare poi le proposte dei vari schieramenti che vanno verso una riduzione delle tasse e quindi minor incasso per il gettito. Non è inutile dire che ci pensa la Cassa Depositi e Prestiti, non può far tutto nella vita. E poi io starei anche molto attento prima di toccare i risparmi postali degli italiani. Però detto questo, cerchiamo di capire quanto costerebbe ogni manovra e qual è il calcolo complessivo. In apertura però due notizie più di cronaca, e mi riferisco da un lato agli sviluppi sul Monte dei Paschi. Oggi sappiamo perché è stato confermato l'arresto di la permanenza in carcere di Baldassarri. Ci sono infatti le motivazioni, ma non solo questo, c'è anche la vicina Telecom Italia. Alle 18.30 in realtà inizierà il consiglio di amministrazione di Telecom Italia. All'ordine del giorno il dossier sulla vendita di T-Media, che è la società che possiede per esempio la 7 e anche il 51% di MTV Italia. Ci sono varie offerte: il fondo di private equity Clessidra, Cairo Editore e anche Diego Della Valle. E poi potrebbero arrivare novità sul bilancio di Telecom Italia, svalutare l'avviamento che è stimato in circa 3 miliardi di euro potrebbe azzerare l'utile del 2012. A questo proposito vediamo come va il titolo in borsa. Va bene, più 1,54%, la Popolare di Milano invece guadagna il 3,44% del titolo più forte tra quelle maggiore capitalizzazione, il Banco Popolare guadagna l'1,20%, Mediobanca più 1%, Snam più 0,90%, Finmeccanica più 0,80%, Terna più 0,50%. Chi va male? Di nuovo Saipem, meno 2,91%, Buzzi Unice meno 2,20%, Monte dei Paschi perde il 2%, come la Popolare Emilia Romagna, Parmalat meno 1,90%, come Unicredit ed ST Microelectronics. L'1,80% lo perde Enel Green Power, e ancora Mediaset meno 1,70%, Tods meno 1,30%, A2A meno 1,1%, Diasori meno 1% come Atlantia. Euro a quota 1,3351. Tra l'altro le altre borse europee vedono Parigi guadagnare lo 0,14%, Francoforte lo 0,40%, Londra perdere lo 0,16%, l'America è chiusa, oggi è il Presidential Day e quindi non arriva nessuna indicazione da President Day, per la precisione, non arriva nessuna indicazione da Wall Street. 349-238-6666 è il numero come sempre per i vostri sms, e la pagina di Focus Economia su Facebook, il riferimento per chi volesse scriverci attraverso Facebook. Parleremo e citeremo anche le dichiarazioni rese oggi da Mario Draghi in tema di manovre che dovranno fare i vari paesi sul risanamento dei conti pubblici e anche del contesto in cui è entrata l'area euro. Ha detto infatti Draghi: servono altri sforzi considerevoli, siamo in un contesto più stabile, ma servono altri sforzi considerevoli. E poi ha aggiunto: il risanamento dei conti pubblici è inevitabile, specialmente nei paesi con un elevato debito pubblico, che vuol dire che noi dovremmo continuare a tagliare deficit e debito. Questo l'ha detto oggi Draghi durante un'audizione al Parlamento europeo. Ne parleremo nella seconda ora del programma, quando iniziamo a fare il calcolo delle proposte dei vari schieramenti. Le altre notizie in breve. Petrolio in calo, 95,72 dollari al barile, oro fermo a 1.618 dollari l'oncia. Sul petrolio, anzi sulla benzina, oggi il Centro Studi Promotor stima che se il calo registrato nelle entrate fiscali, il calo registrato nelle entrate fiscali dello Stato rispetto ai consumi di benzina, meno 5% il gettito, perché? Perché gli italiani, vuoi anche la tassazione, quindi i prezzi della benzina e del diesel, stanno consumando meno carburante, e quindi il gettito per lo Stato è calato di 150 milioni di euro, meno 5%. Ora, se dovesse continuare un andamento, una contrazione dei consumi di carburante di questo tipo, a fine anno lo Stato avrebbe come gettito dai carburanti 2 miliardi e 600 milioni di euro in meno. Restando però sull'Europa, secondo la Banca Centrale Tedesca, la Germania potrebbe già tornare a crescere dopo aver frenato nell'ultimo trimestre del 2012, già in questo trimestre. E mentre l'agenzia di rating Fitch avvisa e avverte la Gran Bretagna che è a rischio la sua tripla A se non riuscirà a ridurre il debito e a dare politiche più credibili. E poi dalla Gran Bretagna arriva un sondaggio abbastanza shock, insomma, secondo il Financial Times, che ha fatto questo sondaggio: se si chiedesse oggi nel Regno Unito quanti vorrebbero restare nell'Unione Europea, solo il 33% vorrebbe restare ancora a far parte dell'Unione Europea, il 50% chiederebbe l'uscita immediata, il 17% non si esprime. E poi il motivo per cui parleremo anche delle politiche proposte, dell'impatto sull'economia delle proposte politiche, perché oggi sono arrivati vari studi. Per esempio il Financial Times torna a criticare con l'editorialista Wolfgang Münchau l'attività del governo Monti, dice che l'entità del crollo della crescita del PIL italiano è chiaramente il risultato delle politiche di austerità di Mario Monti imposte su un'economia già in recessione quando entrò in carica. Devo dire una cosa, allora: noi abbiamo criticato Monti perché alle politiche di tagli e tasse, soprattutto tasse, non sono seguite iniziative per lo sviluppo che potessero far ripartire i consumi o comunque l'attività delle imprese. La fase 2 è mancata completamente. Però ricordiamo anche che l'austerità che Monti ha messo in piedi quando è arrivato veniva chiesta a gran voce dall'Europa, da Bruxelles e soprattutto dai mercati, visto che lo spread era 540 punti, per cui non è ricordiamoci da dove venivamo nel novembre 2011. Detto ciò, a nostro avviso, nella seconda fase del governo bisognava iniziare a impostare anche attività serie, anche di defiscalizzazione e quindi di riduzione delle tasse, per far ripartire l'economia. Poi Credit Suisse afferma che in vista delle elezioni continua a venire prospettato uno scenario relativamente rassicurante, ma ci sono vari elementi, ossia un governo di centro-sinistra con Monti, ma ci sono vari elementi di rischio. Il progresso del centrodestra di Silvio Berlusconi nei sondaggi è uno degli elementi, il voto di protesta in crescita nelle ultime settimane è il secondo elemento, e il rischio che comunque un governo PD con il centro non abbia abbastanza seggi per una maggioranza solida e che la coalizione non sia abbastanza stabile. E poi conclude oggi invece un'analisi di Mediobanca Securities da Londra, dove, a sede, dove stanno gli analisti di Mediobanca Securities. Dice sostanzialmente: l'esito delle elezioni sta diventando sempre più incerto. Lo scenario più probabile è quello di elezioni nel medio termine, obiettivamente, se non ci sarà una maggioranza stabile, è così. Appare così inevitabile una coalizione Bersani-Monti, che non porterebbe comunque a un governo forte. Però poi va avanti Mediobanca Securities dicendo: i tagli delle tasse promessi dai partiti italiani nei loro programmi elettorali ammontano a circa 150-225 miliardi. La dura realtà è che, contrariamente alle promesse, IMU, IRPEF, IVA e TARAS sono destinate a aumentare dal luglio del 2013 a causa degli aumenti precedentemente concordati. E l'IRAP potrebbe essere ridotta, continua Mediobanca Securities, ma una sua abolizione è irrealistica perché i suoi introiti sono pari al 2,5% del PIL, che vuol dire circa 45 miliardi di euro, un po' di meno, 40. Sì, devo dire che la reazione di Mario Monti all'articolo del Financial Times, ha detto: bah, benché l'articolo del Financial Times è stato di autorevolissima attenzione del professor Brunetta, lo considero di peso irrilevante. Adesso, al di là della politica, occupiamoci anche di temi di maggiore sofferenza, perché mentre si discute di tutto, noi continuiamo a porre l'attenzione sui terremotati dell'Emilia e di una parte del Veneto e della Lombardia, il Mantovano. Non lo possiamo fare l'appuntamento questo mese come facciamo sempre il 29 del mese, oltre che essendo febbraio diventava difficile, ma in realtà il motivo è, come immaginate, anche il motivo elettorale. Saremo molto impegnati a capire che tipo di coalizione di governo si riesca a formare e di maggioranza parlamentare. Per cui oggi se ne sono occupati, anticipando l'appuntamento che poi dal prossimo mese tornerà al 29, ce ne siamo occupati perché circa 200 cittadini delle zone terremotate dell'Emilia Romagna hanno manifestato di fronte alla sede della regione a Bologna per portare il loro disagio a quasi 9 mesi dal sisma del 29 maggio. La protesta senza insegne politiche è nata dall'iniziativa del Comitato Finale Emilia Terremotata Protesta, ha aggregato cittadini di quasi tutti i paesi del cratere, della parte colpita dal terremoto, e ancora tra l'altro il primo cittadino di Finale, Fernando Ferrioli, e di Sant'Agostino Fabrizio Toselli. Massimo Nicoletti, portavoce del movimento Finale Emilia Terremotata Protesta, è stato raggiunto dalla nostra Roberta Pellegatta e le ha raccontato che cosa è emerso dall'incontro. C'è stata un'apertura da parte del commissario su alcuni punti che abbiamo evidenziato, ha sottolineato il fatto anche che le ordinanze fatte si possono aggiustare. L'apertura c'è stata sugli studi di settore, noi abbiamo chiesto la non applicabilità per un periodo, il commissario ha detto insomma che adesso verificherà con l'Agenzia delle Entrate se c'è la possibilità di fare questo, quindi insomma sono tutte cose che sono da verificare. E anche per quello che riguarda il contributo per le case classificate A, diciamo che il contributo così com'è non è possibile dare, però c'è, diciamo così, la volontà e la possibilità eventualmente di verificare come fare per far avere questo contributo, che potrebbe essere anche a livello di esonero fiscale, insomma. E anche il discorso delle case sempre classificate A, che magari hanno danni di un certo importo, verificare con dei tecnici, assieme ai tecnici del comune, di poterla eventualmente portare in classe B, insomma, quindi per avere il contributo. Prima dell'incontro in regione avete manifestato Bologna? Sì, siamo arrivati, noi abbiamo steso il nostro bello striscione, insomma siamo rimasti lì davanti, poi insomma diciamo che ci hanno colto quasi subito. Insomma. Quanti eravate e chi c'era? Insomma, così a naso, secondo me più di 200 c'eravamo tranquilli, e poi sono arrivati anche alcuni sindaci, tra cui quello di Finale, quello di Sant'Agostino e quello di Bondeno. Quali sono le vostre prossime mosse? Beh, intanto verificare se effettivamente quello che ci hanno promesso viene mantenuto e poi cercare comunque di monitorare quello che loro ci hanno spiegato per quello che riguarda il discorso dei contributi attraverso le banche, insomma, per vedere se effettivamente è vero quello che dicono oppure se sul territorio si riscontrano cose diverse. Come è nato questo vostro movimento? È nato dalla frustrazione di cittadini, commercianti, artigiani che ancor prima di ricevere i contributi sono stati chiamati a pagare le tasse. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, Sì, torna al nostro appuntamento, ahimè, questa volta anche per raccontare un malcostume che ha danni economici, ma soprattutto rappresenta un malcostume. Partiamo da Bari, dove dopo dei normali controlli di routine, adesso l'assessorato si sta occupando di capire quanti siano i corpi consolari nella città di Bari. Perché? Perché hanno diritto a un parcheggio riservato. Solo che si è scoperto che in via Corfù c'era l'ufficio di un'associazione che si occupa di servizi consolari per conto di Cuba, però non c'era il console di Cuba, eppure avevano diritto al parcheggio con la CC, corpo consolare, e gliel'hanno revocato. Dopodiché è scoppiato il finimondo, perché ci sono strisce gialle in tutta il Bari centro contrassegnate con la lettera CC, addirittura due posti riservati ai corpi consolari di Estonia e Croazia assieme, no? E voglio dire, che io sappia non si sono mai fusi i due paesi, sono anche un po' distanti per fondersi, non mi sembra che la Croazia abbia invaso l'Estonia, però evidentemente addirittura Estonia e Croazia assieme. Sono, pensate, 38 i posti auto, le delegazioni consolari a cui viene riconosciuto il parcheggio, dal Gabon, a Bari, dal Gabon ai Paesi Bassi, passando per il Bangladesh, col massimo rispetto per il Gabon e il Bangladesh. Ma non penso che ci sia il console a Bari del Gabon o del Bangladesh, no? Forse c'è chi svolge le funzioni consolari ma non ha diritto al posto. E comunque questo è un aspetto, perché se poi ci spostiamo a Napoli, invece scopriamo che ci sono almeno un centinaio di casi sospetti su contravvenzioni che, elevate nei confronti di auto transitate lungo la zona a traffico limitato dal mare al centro antico, sono poi state annullate prima di essere riscosse. Come mai? Ma c'è qualche coincidenza. È emerso che in alcune occasioni i verbali erano stati comminati a vetture ritenute riconducibili a familiari e amici di dipendenti dell'amministrazione oppure di pubblici ufficiali. Speriamo di no. È partita comunque un'inchiesta. Il PM Ida Teresi ci vuole vedere chiaro e vogliono capire come avvengono le deroghe in materia di divieti previsti dalla zona traffico limitata. Ripeto, sono 100 verbali, ma l'inchiesta si sta allargando. Tra l'altro, nei giorni scorsi un magistrato dell'ufficio guidato dal procuratore Giovanni Colangelo aveva chiesto agli agenti della Digos di acquisire a Palazzo San Giacomo gli atti riguardanti i 60 staffisti, pure questo mi mancavano, dopo gli avvistatori di neve e come si chiamavano quelli che trasportavano le pratiche, i camminatori nella regione Sicilia, pure gli staffisti, che sono collaboratori esterni impiegati negli uffici e nelle segreterie degli assessori del sindaco, per i quali l'amministrazione sostiene una spesa annuale pari a 2.200.000 euro. Ora mi chiedo, non conosco così nel dettaglio la situazione del comune di Bari, ma veramente non c'era modo di avere altri 60 già dipendenti del comune a svolgere queste mansioni negli uffici, nelle segreterie degli assessori e del sindaco, da staffisti, da staff, penso che derivi. e risparmiare 2 milioni e 200 mila euro, che non è poca cosa per un comune. E adesso invece veniamo alla regione Sicilia, perché cosa è successo nel passaggio di consegne, diciamo così, dove è arrivato Crocetta di un'altra area politica, si stanno scoperchiando vari vasi di Pandora. Allora, non certifichiamo le somme all'Unione Europea, tutte sospese perché stiamo facendo ulteriori verifiche. Che cosa è successo? Il capo di gabinetto dell'assessorato al turismo, Lucia Di Fatta, ha detto che a essere bloccati in attesa di verifiche non solo sono i grandi eventi e le manifestazioni del circuito del mito. Per me il circuito del mito è quello che riguarda il funzionamento della regione Sicilia, ma questa è una mia battuta e me la tengo. Ma anche 30 milioni di euro spesi per manifestazioni sportive finanziate dalla regione tra il 2010 e il 2011. Una miriade di eventi, grandi e piccoli, costati appunto cifre considerevoli, se poi si arriva a 30 milioni, e che rischiano di non passare il vaglio dell'Unione Europea. L'Europa chiede infatti di sapere come sono state scelte queste manifestazioni, in base a quali parametri siano stati utilizzati i costi e soprattutto, pensate un po', che impatto turistico hanno avuto sul territorio. È incredibile che l'Unione Europea chieda come le avete scelte queste manifestazioni, quali parametri avete utilizzato per calcolare i costi e se hanno avuto un impatto turistico. Incredibile, eh? Nessuno ci aveva mai pensato dagli assessori precedenti che se paghi dei soldi per una manifestazione turistica forse dovresti andare a vedere quello che chi ha studiato chiama il feedback, cioè che ti torna. Hai speso i soldi? Hai più turisti? C'è più indotto sul territorio? Girano più investimenti? Ci sono più presenze? Va bene, ma qui nessuno si era mai posto il problema. Facciamo degli esempi. Qual è l'impatto turistico, la ricaduta e anche il criterio per cui la Regione Sicilia nel 2010-2011 ha finanziato con 200.000 euro una gara di triathlon con 60 atleti partecipanti, quando di solito altre manifestazioni hanno avuto 1.000 concorrenti. 60 atleti partecipanti per una gara di triathlon, vabbè, siamo a 3.000 euro ad atleta come costo, non è male. Oppure perché una gara di pentathlon costa 710.000 euro e ha coinvolto 36 atleti? Qui siamo a 20.000 euro ad atleta. C'è uno, il costo di questa gara di pentathlon non si capisce quale sia la ricaduta turistica. E poi i giochi delle isole, manifestazione del CONI nel 2011 è costata 3.400.000 in Sicilia. L'ha fatta l'anno dopo la Sardegna, è costata solo 700.000 euro. Ora, io non so se la Sicilia abbia manie più faraoniche della Sardegna oppure i sardi hanno il braccino corto, ma meno male, a parte il fatto che 700.000 euro sui giochi delle isole, io vorrei sapere a che servono i giochi delle isole, ma magari sono ignoranti in materia, magari sono giochi bellissimi per ragazzi, lo dico seriamente, come erano i giochi della gioventù di una volta. Ma quello che è certo è che se nel 2011 costano 3.400.000, nel 2012 costano 700.000 euro in Sardegna, bisogna vederci chiaro, sono 4 volte in più il costo in Sicilia. E che vi siete magnati? Dico, inteso, non mangiate proprio mangiare come cibo, perché evidentemente il cibo era più caro, 5 volte il costo superiore. E il rischio è per la Sicilia che l'Unione Europea non rimborsi un solo euro di questi 30 milioni già anticipati, pensando che comunque rientrassero nei finanziamenti europei. Qui siamo seri, qui sono 30 milioni di euro che si accumulano al bilancio della Regione Sicilia. Anche perché ci sono cose interessanti. Il trofeo Sicilia costa 550.000 euro, dedicato ai giovani, 500.000. Triathlon del Mediterraneo a Palermo, ma sto triathlon è così importante? Io sono appassionato di triathlon, ma è così importante che si spendono tutti questi soldi al triathlon? È un bellissimo sport, atleti completi. 200.000 euro con 60 atleti in gara, ci risiamo. E il Pentathlon Champion of Champion, ma così si chiama veramente? 40 partecipanti tra Catania e Giardini Naxos, anche qui altri 700.000 euro. Vabbè, mondiale di scherma, 5 milioni di euro a Catania, indaga già la magistratura per presunta corruzione turbativa d'asta. E poi piccole manifestazioni, la cronoscolata o scalata, spero che sia scalata e non scolata, c'è un errore dell'agenzia, cronoscalata del Monte Erice, Vabbè, uno vuole scalare il Monte Erice, a parte il fatto che capirai che è scalata, vai da Trapani, Monte Erice, invece che prendere la funivia. Comunque, uno se lo fa per stare in forma, perché è un atleta, 60.000 euro. La rassegna attività subacquee di Ustica, 100.000 euro. Il Caltanissetta Tennis Challenger, di cui parla spesso Agassi nella sua biografia Open, no? Il Caltanissetta Tennis Challenger, 53.000 euro. Mamma mia. E la cosa che fa impressione, poi finisco perché mi sto avvelenando, è la differenza tra quanto ha speso la Regione Sicilia e quanto hanno speso altre regioni. C'è un raffronto di 3 milioni di euro in un caso e 22 milioni di euro in Sicilia. Tra l'altro, uno dice, con tutte queste manifestazioni pagate e i soldi spesi con costi 5 volte superiori ad altre regioni, i siciliani sono tutti appassionati di decathlon, pentathlon, triathlon, scherma. No, perché pensate, qui gli va veramente un quinto potere che non risumavo da tempo. Pensate che il presidente dell'Unione Sportiva Sicilia, Fabio Marattea, dice: no, lo sport è rimasto fermo in Sicilia, sono solo il 22% dei siciliani quelli che praticano sport. Sapete perché? Perché per spendere soldi per i grandi eventi e mangiare bene hanno tagliato i soldi per lo sport di base, per quello dei ragazzini, per i campetti, per da basket o da calcio. Questo è il risultato della gestione allegra, caro governatore Lombardo e chi l'ha preceduta. Quinto potere. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. No, veramente, guardate, scusate, ma cioè, vedere che si sprecano i soldi, che 30 milioni di euro che l'Europa forse non ci ridarà, per quindi ce li caricheremo tutti noi alla fine, tutti noi, anche i siciliani in primo luogo, per poi vedere che si taglia lo sport di base, quello che servirebbe ai ragazzini per tirarli fuori anche da condizioni di marginalità delle volte. Mamma mia, mi metterei a fare veramente i guardiani dei campi, lo so, sono populista oggi, vabbè, parte così la settimana, visto che arriviamo sotto elezioni. Facciamo così, andiamo sul meteo, la pubblicità e poi Raffaella Calandra ci aggiorna sul perché è rimasto dentro Gianluca Baldassarri, l'ex responsabile dell'area finanza del Monte dei Paschi, le motivazioni dell'ordinanza. Sì, ce l'ho una buona notizia per oggi, sono le 17:40 minuti, c'è una buona notizia, ne lo chiedono alcuni ascoltatori, riguarda la Ferrari, e poi ne parliamo, perché secondo lo studio compiuto da Brand Finance, la Ferrari è il marchio più forte del mondo. La valutazione vede la Ferrari al primo posto davanti a marchi come Google, Coca-Cola, PricewaterhouseCoopers e Hermès. Di una classifica che comprende i primi 500 nomi al mondo, e dice il marchio più forte, non quello che crea maggior valore, però chiaramente. Quindi, tra l'altro, nel giorno in cui si sa la Ferrari festeggia, e questo potevamo mettere nella nostra rubrica, ma cos'è questa crisi? Ma adesso non ci abbiamo più tempo. Festeggia vendite record a livello mondiale, a dimostrazione che c'è chi annaspa con l'acqua alla gola come l'Europa e c'è un mondo che continua a crescere e a produrre ricchezza. La Ferrari infatti oggi ha diffuso dei dati in cui appunto emergeva, se li trovassi sarei contento anch'io, in cui emergeva che sostanzialmente hanno avuto il massimo, eccoli qua, il record di vendite nel 2012: 7.318 auto vendute, 2 miliardi e 430 milioni di ricavi, record di Ferrari venduto nel 2012. Secondo me non in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, ho questa sensazione. Raffaella Calandra, dacci oggi il nostro Monte dei Paschi quotidiano, se non si offendono gli ascoltatori, nel senso che pochi istanti fa Mario Draghi da Bruxelles ha detto, riferito al Monte dei Paschi, la situazione difficile in cui si è venuta a trovare la Banca Monte dei Paschi, che resta comunque un caso isolato, non è solo questione di gestione bancaria ma anche di attività criminale, così il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Allora, quando Monte dei Paschi comprò Anton Veneta, governatore della Banca d'Italia. Oggi noi, Raffaella, sappiamo perché i magistrati hanno deciso di tenere in carcere Gianluca Baldassarri, l'ex responsabile dell'area finanza del Monte dei Paschi. Prego. Esatto, cioè se da una parte il GIP di Milano, Alfonso Maria Ferraro, che ovviamente poi ha inviato per competenza tutti gli atti a Siena, conferma, come dicevamo la settimana scorsa, il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, dall'altra parte nell'ordinanza di custodia cautelare, in queste 26 pagine che ha scritto, si sofferma soprattutto sulle motivazioni del reato contestato a Mister 5%, come è stato ribattezzato Baldassarri, e scrive che in questo caso il concorso nell'ostacolo agli organi di vigilanza per quel famoso contratto trovato nella cassaforte di Vigni, ex direttore generale della banca. Ebbene, scrive il GIP che in quel contratto si realizzava un collegamento negoziale tra alcuni investimenti in BTP e la ristrutturazione di Alexandria, ed è per questo che sarebbe stato chiuso per 3 anni in quella cassaforte, ostacolando consapevolmente, marca il GIP, le funzioni di Banca d'Italia. Cioè, lungi dall'essere una mera dichiarazione di intenti, come è stato sostenuto durante l'interrogatorio dall'ex capo dell'area finanza, in quel contratto stipulato il 31 luglio 2009 tra Nomura e MPS si realizzava invece un collegamento negoziale tra alcune operazioni in BTP e Repo a scadenza trentennale per 3,5 miliardi e la ristrutturazione di Alexandria, tutte con la stessa controparte Nomura. Ed è proprio per questo, cioè, che gli ex vertici di Rocca Salimbeni, sempre secondo quanto ipotizzano i magistrati e quanto il giudice a questo punto raccoglie, nascosero quell'atto agli ispettori di Banca Italia, mentre invece sarebbero stati obbligati, una volta superata la fase riservata delle trattative, a mostrarlo appunto agli inviati di Palazzo Koch. Ecco, questo, Raffaella, al di là dei tecnicismi, secondo gli inquirenti, dimostra che io ripeto sempre, uno può fare un derivato che poi crea 700 milioni di euro di perdite, sono vari derivati, Alexandria, ma non solo, per sbaglio, perché ha fatto una scommessa sul mercato, ha preso rischi impropri e lì ne risponderà di fronte agli azionisti, di fronte al datore di lavoro. Altra cosa è se io trasferisco con Nomura, do Nomura cose buone, le spiego a tutti, e prendo cose ad alto rischio, perché lateralmente mi faccio pagare una commissione che si chiama stecca, in questo caso, no? Il 5% famoso. E in quel caso non posso più dire, sapete, ho rischiato, è andata male, pagherò, ma faceva parte della mia attività professionale. Ecco, il motivo per cui lui resta in carcere, oltre al fatto che può fuggire, quindi è perché ha dimostrato un'attività, diciamo, collaterale a quella normale con Nomura, quando tu vai e ti senti proporre uno strumento derivato e dall'altra parte invece hai qualcos'altro da offrire. Cioè, è dimostrato, secondo il giudice di Milano, che le due operazioni erano collegate tra di loro, e questo, cioè, ci sono dei precisi obblighi dal momento che MPS, certo, è una società quotata, ci sono precisi obblighi nei confronti di Banca d'Italia. Cioè, se nella prima fase è effettivamente vero, come dice Baldassarri, che quel tipo di mandate agreement non poteva non essere mostrato agli ispettori di Banca Italia, perché venire a sapere di quel tipo di operazione avrebbe potuto portare a dei movimenti sul mercato, quindi anche ad eventuali ipotesi di speculazioni sul mercato. Una volta finita quella fase erano obbligati a mostrarlo a Banca d'Italia, anche perché Banca d'Italia deve avere il quadro completo della situazione per poter fare poi a sua volta le sue valutazioni. Certo. Quello che i giudici dicono è che avevano fin da subito collegato le due operazioni, da una parte quella di appunto di queste operazioni in BTP con Nomura, sì, dall'altra il derivato. E la cosa interessante che si può scoprire leggendo questa ordinanza è che a parlarne non sono soltanto nomi che in qualche modo sono già venuti fuori, come Ricci, cioè l'ex manager Dresner, poi Nomura, che ha seguito per Nomura la ristrutturazione di Alexandria, sì, ma anche altri membri dell'area finanza di Baldassarri, come Contena, oppure Giovanni Conti, che è tuttora capo dell'area gestionale gestione rischi della banca e finanche lo stesso successore di Baldassarri, che è Sergio Vicinanza. Di tutto questo però ancora, secondo i magistrati, ne erano consapevoli, oltre allo stesso Baldassarri e a Bigni, nella cui cassaforte questo contratto era nascosto, anche lo stesso Mussari, a cui contestano il reato. E la posizione di Mussari si sta complicando di giorno in giorno, perché è chiaro che lì il discrimine è: sapevi o non sapevi, non è inutile girarci attorno, sapevi, c'è una responsabilità oggettiva perché tu eri il numero uno, però poi c'è una responsabilità anche soggettiva, cioè tu eri al corrente di questa operazione, dei rischi, sì o no? E mi sembra che la situazione si stia, da questo punto di vista, per Mussari complicando. Grazie Raffaella Calandra. Minuti, c'è chi mi fa notare che la cronoscalata del Monte Erice è una gara automobilistica, che ho sbagliato, non è una gara podistica, chiedo venia, ma resta il tema: se in una regione che taglia, schiacciata dai debiti, che taglia lo sport di base per i ragazzini e finanziamenti, resta il tema se ha un senso pagare quello che ha pagato la regione Sicilia, a mio avviso, per la cronoscalata, che a questo punto scopro essere una gara automobilistica, del Monte Erice, 60.000 euro. Ora voi direte 60.000 euro non sono tanti, beh insomma vediamo di capire quanto va le associazioni sportive di base, magari di quartieri come lo Zen a Palermo, no, capire magari cosa si poteva fare con 60.000 euro. Qualche ragazzino, ma non faccio per retorica, qualche ragazzino forse si appassionava di più lo sport, lo tiravi fuori dalla malavita, non lo so, chiedo. Sicuramente a me la gara vogliono fare la crono, come cavolo si chiama, cronoscalata, e pagassero loro, qual è il problema? Che deve pagare la regione Sicilia chiedendo i soldi all'Europa, e se l'Europa non glieli dà, li dobbiamo dare noi. Se no, se è così, prossimo anno, se scopro che mi tocchi i soldi per la cronoscalata, la faccio fare a piedi, facilitato da dietro. Basta, dai, la borsa. Allora, meno 0,50 nel finale, Milano ha girato il mercato, ancora più 0,18 Parigi, più 0,40 Francoforte, Londra meno 0,16, l'America è chiusa per il President Day. Ciao Condina, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, da un lato, tra poco parliamo di Telecom, quindi salterei il titolo, Popolare di Milano più 3,26%, invece Saipem di nuovo con un calo che alla fine è anche peggiorato, meno 3%. Pop Milano e Saipem. Popolare di Milano vola ancora sulle, insomma, quelle che sono più di voci, sono ormai scommesse molto più che fondate sulla sua trasformazione in società per azioni, trasformazione che, come è noto, poi potrebbe rendere questa banca ancor più di mercato, tra virgolette, lanciandola in quello che potrebbe essere un risico delle popolari, risico che alcuni mesi fa Mediobanca aveva indicato in un report ad hoc, che potrebbe veder coinvolto anche il Banco Popolare. Non è un caso che oggi siano, insomma, tra i migliori titoli. Il Banco Popolare guadagna l'1,3%, Banca Popolare di Milano il 3,3%. Per quanto riguarda Saipem invece, una perdita di 3 punti secchi, sicuramente il mercato non giudica la sua visibilità sui conti della società ancora chiaro al 100%, fondamentalmente resta in attesa di ulteriori informazioni e conserva dubbi sulla redditività del gruppo. Ancora per quello che riguarda invece altri titoli, Buzzi Unice meno 2,14, Mediaset meno 1,84, e Stima Microelectronics meno 1,80 anch'essa, come la Popolare Emilia Romagna. L'1,70 lo perde Unicredit, ma anche Parmalat. L'1,60 il calo del Monte dei Paschi e di Enel Green Power. L'1,20 quello di A2A e di Tods. Sul fronte Prismian, abbiamo anche i migliori, Telecom Italia più 1,46, Banco Popolare più 1,30, Mediobanca più 1,20, Snam più 0,90%. Su Finmeccanica abbiamo visto anche più 0,55%, nuove indiscrezioni sull'offerta per Ansaldo Energia. Sembra che, nonostante il fresco avvicendamento al vertice con l'insediamento del nuovo amministratore delegato Alessandro Pansa, la questione delle dismissioni, fondamentale per il recupero di redditività del gruppo, stia andando avanti. Si sarebbe arrivata, secondo quanto riportato ieri da Sole 24 Ore, un'offerta da 1,3 miliardi di Siemens per Ansaldo Energia. Siemens era già fatta avanti in passato, poi sembrava profilarsi una cordata italiana, vediamo se stavolta alla fine si quaglierà su questa cessione, perché si va avanti da mesi senza risultati concreti. Ancora, che succede su Prismian? Perché il titolo poi alla fine è chiuso in parità, però... però guadagnava, andava bene. In controtendenza, c'è ottimismo. Prismian è l'ex Pirelli Cavi, lo dico per precisione. Sì, una società insomma che fondamentalmente fa cavi, infrastrutture, la scommessa del mercato è quella che nel secondo semestre riparte il ciclo economico, non solo in Italia ma anche in Europa, e che quindi appunto Prismian, essendo una società esposta sugli investimenti sulle infrastrutture, possa beneficiare dell'inversione di rotta della congiuntura. Ancora, migliore e peggiore in assoluto in questa giornata appunto in cui manca l'America, priva di altri spunti. Dunque, il peggiore comp della ruota, tu sai cos'è comp? Io intanto trovo dei titoli, non si sa cos'è. Compagnia della ruota, perfetto. Si è quotato da poco. Meno 7,70%. Una volta l'ho detto di Primi sui motori, mi hanno chiamato, ma non ho voluto vedere. In realtà Primi sui motori non è una cosa automobilistica, ma è una società che fa, aiuta le società a essere primi sui motori di ricerca. È di Modena, quindi si è chiamata Primi sui motori. Ma detto ciò, Compagnia della Ruota, meno 7,70. Che fa Compagnia della Ruota? Si occupa di situazioni aziendali di crisi, fondamentalmente. E perde pure in borsa. Non ho capito, dovrebbe andare benissimo in questo periodo. Si occupa di quel passaggio poi che c'è tra fallimento, amministrazione straordinaria. Insomma, sono specializzato. Sai perché si chiama Compagnia della Ruota? Vabbè, a me viene in mente la ruota degli innocenti a Firenze. Vabbè, Datalogic meno 7,40, PMS meno 6,90, i migliori, adesso ne parliamo. Telecom Italia Media sul risparmio più 15,56, Telecom Italia Media, che vuol dire la 7 e il 51% di MTV, più 10,67%, e poi di mail più 10,53%, e quindi mercato, oltre che premiare Telecom Italia più 1,46, premia anche e soprattutto Telecom Italia Media. Evidentemente crede che vi sarà un compratore alla fine. Tra mezz'ora inizia il consiglio di amministrazione, più o meno, e noi di questo parliamo adesso. I pretendenti sono, da quello che abbiamo capito, il fondo di private equity, quindi di capitali privati, Clessidra, Cairo Editore e Diego Della Valle. Tra l'altro potrebbe esserci anche una svalutazione nell'ordine di 900 milioni operata domani dal consiglio di amministrazione di Telco. Però stiamo su Telecom e Telecom Italia Media. Antonello Olivieri, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, questa mattina subito fortissima Telecom Italia Media, dopo le voci scusatemi, che anche Della Valle è interessato. Oggi in borsa anche il gruppo Rizzoli Corriere della Sera è andato bene, cioè si sono rimossi tutti i media, infatti non l'ho citato, ma RCS ha fatto più 6,60%. Antonella, siccome abbiamo il GR che incombe, dammi una prima spiegazione e poi ti riprendo nella seconda ora del programma. Si crede che a questo punto vi sarà un compratore comunque? Diciamo, si crede che sicuramente verrà venduta, non so se è proprio oggi la giornata giusta, e soprattutto mi pare che l'interesse sta convergendo sulla TV più che su tutto il gruppo, perché è lì che c'è un po' di competizione, stranamente, visto che è la parte che perde di più. Alle 18:07 riparte Focus Economia con la seconda parte e con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Eravamo rimasti con Antonello Olivieri, io ho fatto una battuta, ma insomma sorpresi, perché è un periodo in cui si dice che i gruppi media, è vero, sono in difficoltà tutti, che il mondo sta cambiando, poi appena arriva un'offerta per Telecom Italia Media, cioè la 7 e MTV, di cui al 51%, il titolo schizza più 15% oggi sul risparmio, più 10,60 sulle ordinarie Telecom Italia Media, trascina con sé anche Rizzoli Corriere della Sera più 6,60% sul risparmio, più 6,50, e fa andar bene anche il titolo Telecom Italia più 1,46%. Detto questo, che cosa dobbiamo attenderci, Antonio Olivieri, tra circa 20 minuti, quando inizierà il consiglio di amministrazione della Telecom? Perché oltre a decidere quando e se vendere la 7, cioè Telecom Italia Media, c'era anche un'ipotesi di un avviamento che dovesse essere svalutato, e quindi 3 miliardi, e quindi azzerare l'utile 2012. A te le risposte. E partiamo dal discorso dell'avviamento. In realtà oggi non verrà data una cifra, però un range che si vada verso una svalutazione degli avviamenti, questo è ormai dato per scontato. Il range orientativo è abbastanza ampio, tra i 2 e i 4 miliardi, il che significherebbe che molto probabilmente gli utili della gestione quest'anno verrebbero contabilmente azzerati, però non cambia nulla, nel senso che ci sono riserve ampie, per cui il dividendo che è stato prospettato, tra l'altro dimezzato a 450 milioni, ovviamente ci saranno le risorse per distribuire e pagare. Per distribuire il dividendo. Ancora invece sulla 7, allora gli offerenti sono il fondo di Clesside, quindi private equity di investitori privati, Cairo Editore e adesso Diego Della Valle. Da quello che vediamo, è sto proprio l'annuncio di Diego Della Valle a entusiasmare la borsa in questo punto? Certo, perché le prime due offerte, che sono vincolanti, quindi sono complete, a differenza di quella di Della Valle che è soltanto un interessamento preliminare, non erano molto entusiasmanti dal punto di vista economico. Certamente erano inferiori a quello che Telecom aveva preventivato di incassare dalla vendita di Telecom Italia Media, ma aveva previsto 450 milioni a budget, che sicuramente non, con le offerte pervenute non sono non è centrato l'obiettivo. Quella completa è quella di Cairo, si parla di 300-350 milioni, quella di Clessidra. Quella di Cairo invece è soltanto per la 7, ma di fatto è una disponibilità ad accollarsi un problema, cioè quello di cercare di ristrutturare la TV che perde da anni. I tempi dell'ultima domanda che ho per te, perché intanto se tu ritieni che comunque da questo CDA potrebbe, Consiglio di Amministrazione potrebbe uscire il via libera a valutare le varie offerte, ma soprattutto quando si potrebbe entrare in vivo, perché c'è chi dice, per varie sensibilità, quando si tocca la televisione in questo paese si parla anche di politica, inutile girarci attorno, dopo le elezioni. Beh, diciamo, le due offerte complete senz'altro verranno esaminate, quindi se certo, una delle due dovesse essere ritenuta soddisfacente si chiuderebbe lì la partita. Io penso che potrebbe invece andare avanti, proprio perché le offerte arrivate finora non sono pienamente soddisfacenti. E quindi tu ti immagini che anche per un motivo di opportunità, oltre che di valutazioni, di due diligence, quant'altro, si arrivi a dopo le elezioni? Se si decide di approfondire anche l'offerta della Valle, necessariamente, perché non mi risulta che abbia quantificato l'interesse, anche perché non ha potuto vedere le carte, è arrivata la lettera nel weekend. Quindi staremo a vedere. 18:30 è confermato l'orario, Antonella? Penso di sì. Per cui vediamo cosa arriverà e poi vi daranno l'aggiornamento i nostri GR. Noi adesso entriamo in un tema ancora più delicato rispetto a quelli già trattati prima, mi riferisco alle spese di varie regioni italiane, perché vorremmo iniziare ad avvicinarci al giorno elettorale, quindi domenica e lunedì, cercando di fare un calcolo di quello che costano le varie proposte arrivate, di che impatto avrebbero sui conti pubblici dei vari candidati, e soprattutto alla luce di quelli che sono gli appuntamenti obbligatori dell'Italia, di cui ovviamente i candidati parlano poco, perché è più facile promettere taglio delle tasse che non ricordare l'aumento dell'IVA che scatta in automatico se non troviamo le risorse, diciamola tutta. 349-238-6666 e Facebook, la pagina di Focus Economia. Allora, il Sole 24 Ore si sta esercitando in una cosa non facile, e cioè capire i costi, l'impatto sul PIL e quant'altro. Oggi però Mario Draghi ha in audizione al Parlamento Europeo chiarito due cose. La prima sul cosa devono fare i paesi che hanno un alto debito, e quindi ha detto il Presidente della Banca Centrale Europea continuare a risanare i conti pubblici. The fiscal consolidation, especially for countries with high debt. Il risanamento dei conti pubblici, specialmente nei paesi con un elevato debito pubblico, è inevitabile. Allo stesso tempo è anche vero che il risanamento ha degli effetti di contrazione sul PIL nel breve termine. Quindi credo che il punto centrale non sia tanto quello di posticipare il consolidamento, quanto piuttosto di come mitigare gli effetti del risanamento. Ma come si possono mitigare questi effetti? Una via prevede che si agisca più sulla riduzione delle spese che sull'aumento delle tasse. Non vale certamente per tutti, ma senza dubbio nell'area euro e nell'Unione Europea le tasse sono già molto alte. Un secondo punto su cui insistere è che occorre portare avanti riforme strutturali per rilanciare l'economia e il mercato del lavoro. Lo abbiamo visto in uno o due paesi. Se il percorso di riforme viene fatto, l'export aumenta e ciò aiuta a mitigare gli effetti contrattivi nel breve termine. Infine, un terzo aspetto su cui i governi devono concentrarsi ha a che fare con la credibilità dei piani di risanamento. Se i piani sono credibili, allora i mercati si sentono rassicurati. I dettagli dei piani sono fondamentali. Per rassicurare i mercati, i piani di risanamento devono essere credibili. E poi in questa giornata abbiamo avuto anche varie indicazioni arrivate da banche. Penso al Credit Suisse che dice: in Italia vi è un rischio molto alto di una coalizione instabile anche nel caso di un governo tra PD e i centristi. E la dichiarazione, e le, scusatemi, l'analisi di Mediobanca Securities in uno studio diffuso oggi da Londra, dove stanno gli analisti di Mediobanca, ha detto: vabbè, lo scenario più probabile è quello di elezioni nel medio termine, perché l'esito delle elezioni del 24-25 sta diventando sempre più incerto. Appare inevitabile una coalizione Bersani-Monti, in questo caso non porterebbe a un governo forte, quindi ci potrebbero essere in vista nuove elezioni. I rischi maggiori vengono dalla forte rimonta di Berlusconi e dal Movimento 5 Stelle, che potrebbe rivelarsi il vero vincitore delle elezioni con circa il 20% dei voti. Questo ce lo dicono i sondaggisti da settimane. Ancora dice però Mediobanca Securities: i tagli delle tasse promessi dai vari partiti nei programmi elettorali ammontano a 150/200 miliardi di euro. La dura realtà, conclude il rapporto di Mediobanca Securities, è che contrariamente alle promesse, IMU, IRPEF, IVA e TARAS sono destinate ad aumentare dal luglio del 2013 a causa di aumenti precedentemente concordati. Dino Pesole, buonasera. Buonasera, eccomi. Allora, stai lavorando anche tu alle due pagine su cui che sì, domani il Sole dedicherà a l'impatto delle varie proposte economiche e anche i costi. Dici prima di tutto una cosa, poi dopo il traffico ti chiedo il resto. Ma questi aumenti precedentemente concordati, a cui fa riferimento Mediobanca Securities, quali sono? Cioè, quali sono le scadenze che avremo comunque, chiunque vinca le elezioni? Beh, le scadenze che avremo comunque, ne dico una per tutte, sarà l'aumento dell'IVA di un punto dal 21 al 22% dal prossimo 1 luglio, è già scritto in bilancio, sono 4 miliardi a regime che sono già stati decisi, e dunque bisogna decidere se mantenerli o meno. Il prossimo governo dovrà operare una scelta e quindi se deciderà, come è auspicabile perché sarebbe un ulteriore aumento della pressione fiscale, di intervenire diversamente, dovrà trovare risorse compensative per questa stessa cifra. Per quel che riguarda le altre imposte, si tratta di aumenti già programmati che in particolare riguardano anche il fronte delle addizionali, ma naturalmente la decisione politica, al di là delle promesse che comunque non potranno essere mantenute, se vuoi tra un po' ne parliamo, sarà prima di tutto questa, cioè il governo dovrà dire: lasciamo che l'IVA aumenti, oppure interveniamo diversamente. Allora, Dino Pesole, le scadenze le abbiamo chiare e non ho citato la manovra eventualmente aggiuntiva perché dopo la lettera di Olli Rehn, il commissario europeo, alla Francia, non citava solo la Francia, forse speriamo che l'Europa sia un po' più morbida con Francia e con Italia nel raggiungimento del pareggio di bilancio sul deficit, quindi dello zero sul deficit. Però andiamo ai programmi dei vari partiti, vai. Beh, allora, i programmi noi ci stiamo esercitando, domani ne daremo ovviamente sul giornale. La cifra indicata da Mediobanca Securities si avvicina abbastanza alle stime che noi abbiamo in questi giorni messo a punto, parlano di complessivi 140 miliardi, quindi non siamo molto... Ecco, ma fammi capire, sono 140 miliardi sommando tutte le proposte, non, sì. non è che uno abbia proposto tagli per 140 miliardi? No, no, è la somma di tutte le proposte che però appaiono assolutamente incompatibili con lo stato dei nostri conti pubblici. 140 questo, miliardi, mi stiamo scherzando. Questo va detto subito per chiarezza. E allora, già sono 10 punti di PIL, lo dico subito. Sì, è una cosa spaventosa. Allora, il problema però riguarda sostanzialmente l'anno in corso. Nell'anno in corso non si potrà fare quasi niente, perché l'abbiamo appena detto, ci sono da 4 miliardi da trovare per evitare l'aumento dell'IVA, ci sono delle spese da coprire che comunque si renderanno necessarie, ci sono gli esodati, ci sono gli ammortizzatori in deroga, ci sono le missioni internazionali da finanziare per gli ultimi 4 mesi, qualsiasi governo dovrà misurarsi con queste nuove spese. E dunque, però, nonostante questo, si vede che il programma del PDL, ad esempio, già nell'anno in corso bisognerebbe trovare 8 miliardi, perché se verrà restituita l'IMU pagata nel 2012 e verrà contestualmente abolita l'IMU sulla prima casa, questo costa 7-8 miliardi e vanno coperti subito. 8 miliardi più l'IVA, perché se uno non vuole fare l'IVA, nel senso che non avrebbe senso, comunque... Cioè, non avrebbe senso levare l'IMU però tenere l'aumento dell'IVA, allora uno dovrebbe dire ti levo l'IVA, cioè 2 miliardi per il 2013 di costo e 4 miliardi per il 2014, in compenso devi trovare 8 più 2, 10 per il 2013 e 8 più 4, 12 per il 2014. E questo è solo per quel che riguarda l'IMU e l'IVA, e se poi ci spostiamo sugli altri due grandi imposte, vale a dire l'IRPEF e l'IRAP, e qui il discorso diventa ancora più complicato, perché il PDL propone l'abolizione in 5 anni dell'IRAP che costa 35 miliardi e propone la riduzione a 2 delle aliquote IRPEF, 23% fino a 40 mila euro, 33% oltre, che costerebbe altri 22 miliardi dal 2014, ma comunque anche gli altri partiti... Allora, intanto facciamo PDL, PD e Monti. Eh sì. Non se ne abbia grillo, per favore. No, però domani su Sole 24 Ore trovate tutte le due pagine su tutti i costi delle proposte. Però, allora, PDL ho capito, IMU sono 8 miliardi, più la riforma dell'IRPEF sono 35 e con le aliquote fanno altri 22, ok? Eh sì. IRAP sono 35, 22 miliardi e l'IRPEF. PD. Allora, per quel che riguarda il PD, la parte più rilevante non riguarderebbe quest'anno, per la verità, perché su quest'anno mi sembrano un po' più prudenti, avendo previsto solo un intervento di alleggerimento dell'IMU con l'esenzione fino a 500 euro di imposta pagata, il che comporterebbe dai nostri calcoli un minor gettito di 2,6 miliardi, a questi ovviamente bisogna aggiungere i famosi 4 miliardi dell'IVA ai quali non si scappa. Ma il problema riguarda il 2014 e poi gli anni seguenti, perché è prevista la riduzione della prima aliquota IRPEF dal 23 al 20%, e qui sono tanti soldi, perché si tratta di un minor gettito da finanziare che a regime vale 12 miliardi. Quindi anche qui, insomma, mi sembra che nel programma del PD, sempre al netto dell'IVA di cui nessuno si occupa, io trovo una cosa pazzesca questa. Perché qualcuno mi scrive: la promessa di abbassare, di non alzare l'IVA non crea voti. Ma chi lo dice? Un altro mi scrive: beh, non sono d'accordo con lei, l'IVA aumenta solo per chi ha i soldi e li spende. Beh, mica tanto, sa, perché ci sono delle spese in cui l'IVA è 22 e tocca anche a lei. Le tasse colpiscono tutti. No, se fossimo un paese più serio, le tasse hanno una proporzionalità che l'IVA non ha, per cui dovrebbero colpire soprattutto i redditi più alti, con un'evasione diversa. Ma con l'evasione che abbiamo sappiamo che poi colpiscono i soliti noti. Ma detto questo, io non sono d'accordo con lei, l'IVA colpisce anche, ed è a mio avviso più ingiusta rispetto a una vera tassazione progressiva e proporzionale. Comunque, andiamo avanti. Sì. Monti. Ecco, l'ultima cosa del PD, che si vuole intervenire sul cuneo fiscale, come sembra, non ho ancora ben capito, perché non l'ho visto riportato da nessuna parte, quanto dovrebbe essere la riduzione del cuneo, che peraltro noi sosteniamo da anni che sia benvenuta, ma il problema qui è non è che bisogna essere benvenuti o quanto benvenuti. Costò quella di Prodi? Erano 5 punti, 3 5. Per le aziende e 2 per i dipendenti, sono secondo me. Guarda, i calcoli sono che circa 2 miliardi appunto di riduzione del cuneo fiscale, quindi questo è. Però poi non se ne effettivamente non se ne è visto grande effetto. Comunque anche questo bisogna mettere nel calcolo. Chiudiamo con Monti perché ho 2 minuti, Dino. Allora, chiudiamo con Monti. Qui la cosa è abbastanza semplice perché lo stesso Monti l'ha quantificato in circa 30 miliardi. Queste sono le promesse fiscali. 30 miliardi lungo la legislatura, giusto? Beh, e dunque lui parla di 2013-2014, quindi con effetti a regime. E la cosa più rilevante del programma di Monti in effetti riguarda 2014, perché anche Monti vorrebbe intervenire sull'IRPEF e sull'IRAP, ma sull'IRAP non come Berlusconi per abolirla integralmente, ma per togliere completamente il costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP e poi però intervenire anche sulle aliquote IRPEF più basse. Quest'anno sull'IMU si limiterebbe invece al tentativo di alleggerimento che comunque costerebbe in ogni caso circa 2 miliardi, quindi in ogni caso nell'anno in corso queste risorse vanno individuate. E questo è il punto. Uno può promettere quello che vuole nella vita, no? Però poi deve anche dire come, dove piglia sti soldi. È inutile continuare a tirare la cassa depositi e prestiti per la giacchetta come se fosse un elastico. A parte che sono i risparmi postali degli italiani. E poi attenzione, perché poi l'Europa ci guarda. Comunque, PDL, abbiamo capito che con la proposta dell'IMU sono 4 miliardi più la rimodulazione fiscale sono 35, fa 39, più 22... fa 63 miliardi a regime. PD 2 miliardi e 6 sull'IMU più 12 miliardi fa 14-15 miliardi a regime più il cuneo fiscale di cui non sappiamo ancora cosa voglia fare. Monti 30 miliardi a regime. L'unica domanda che mi resta è dove le andranno a pigliare e soprattutto questo include, perché se hai questi soldi, scusatemi se batto su questo tasto, ma allora non esiste che tu mi aumenti l'IVA e non esiste che scattino in automatico altri aumenti tipo le addizionali IRPEF di carattere regionale e comunale. So che sono un ingenuo, ma non vedo molta coerenza in questo. Il Movimento 5 Stelle, mi chiedete perché non lo invitate? Perché Grillo non vuole parlare con noi. Chiedete al collega Simone Spezia da quanto ci sta provando. Abbiate pazienza, non è che possiamo portare un imitatore. Grazie Dino Pesole. È tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Intanto buona serata da Sebastiano Barigioni. Radio 24, la passione si sente.